Questo è Adam, immagino, in calore. Voglio dire, e perché mi mandi sta roba? Eh? Mi hai detto di cancellare la mia e mandi te? Non si fa, non si fa, non si fa!